Vai con la sigla. Come ti chiami tu, come si chiama questa radio? Di anche che giorno è? Esatto. Oggi è il 14 dicembre 2021, sono le ore 17:20, sì 19:20. Ecco. Siamo in diretta su Radio ZM, vai Miki. Abbiamo anche una stufa. Fortuna, olè. Mi stanno cadendo le cuffie, però ora ci sono. Vuoi le cuffie di Omar? No, non sento. Sei sicura che non le vuoi? Non le voglio, assolutamente no. Sono molto felice perché dobbiamo presentare questo libro. Ora vi dico il nome: La politica della rabbia di Franco Palazzi, dal vivo. Però gli scioperi, che sono sempre i nostri amici, decidono di avvenire proprio in questo momento, ma noi siamo contenti lo stesso. Sempre per gli scioperi. E ho qui i miei fantastici amici della radio ZM, Ricky, Giulia e Gulli, che mi supportano perché loro sono i veri conduttori di questa radio. Io mi presto perché sono felice di presentare questo libro. Ora chiamiamo in diretta l'autore e ce lo facciamo raccontare. Vai con la chiamata. Ora chiamerò qualcuno. E parte con la chiamata. Vado con la chiamata. E io alzo la musica. No, sei bellissimo. Ciao Franco. Buonasera, sei in diretta. Perfetto. Buonasera alle persone all'ascolto. Allora. Siamo in quattro in radio ad ascoltarti per ora. Più tutti quelli da casa, ovviamente. Che sono altri, Gulli suggerisce 3.999.996. E 5 per la questione. In totale siamo 4 milioni. Benvenuto su Radio ZM. Grazie. Allora, è una presentazione un po' atipica, perché dicevo prima, dovevi essere qui, però purtroppo il fato e gli scioperi non ce l'hanno permesso, però sarà una diretta spoiler di quello che sarà quando verrai qui. Dunque, un po' pubblicità per il prossimo evento e per la presentazione. Dunque, non staremo qui a fare una roba un po' di quella che avevamo previsto, cioè discussione, domande, ma sarà più un tuo racconto libero, una chiacchierata, proprio pubblicità per La politica della rabbia, per una balistica filosofica pubblicato da Nottetempo quest'anno, che consigliamo a tutte e a tutti di leggere assolutamente. Quindi preparatevi per la presentazione. Franco, vuoi parlarci un po' tu del libro? Ma sì, insomma, è un libro che nasce un po' da una doppia esigenza. Da un lato è quella di fare un attimino un passo indietro rispetto a una retorica dominante a livello mediatico e non solo in Italia, che sembra dirci che le passioni siano sempre nemiche di una buona politica. Che in qualche modo una buona politica, intesa come una politica democratica, una politica egualitaria, debba sempre essere una politica che si rifà a una certa freddezza, che si rifà a una certa razionalità, per usare un'espressione molto di moda in questo tempo pandemico, ai fatti e alla logica. E dall'altro lato invece appunto pare che le emozioni, le passioni, i sentimenti possano essere invocati soltanto da parte di una politica reazionaria, una politica irrazionalistica, una politica escludente. Io sono fortemente in disaccordo, diciamo, con questa narrazione. Quindi il libro parte in primo luogo dalla necessità di reclamare un buon uso delle passioni, dei sentimenti in politica, in particolar modo un buon uso della rabbia. E quindi un uso della rabbia fatto non in contraddizione ovviamente con un approccio più tradizionale, più anche razionale, no, alla, alla politica, ma appunto volto a mostrare che esiste una razionalità delle passioni, una razionalità dei sentimenti, e che questi possono essere invocati non soltanto contro il capro espiatorio di turno, ma che possono essere una parte importante di una politica radicale, una politica egualitaria, anche volendo di una politica rivoluzionaria. In secondo luogo, secondo me, c'era anche un po' il bisogno di fare i conti con quelle che sono le molte lezioni pratiche, ma io credo, da persona che di formazione si occupa di filosofia politica, anche teoriche, che alcuni movimenti sociali che hanno animato le piazze, non solo italiane, anche internazionali, negli ultimi anni ci hanno trasmesso, in particolare appunto rispetto alle modalità di mettere a frutto la propria rabbia, di indirizzarla verso un cambiamento sociale, che sia un cambiamento sociale che vada in una direzione radicalmente democratica e non in una direzione conservatrice o reazionaria. Nel libro dedico ad esempio un capitolo a Nonna di Meno, mi occupo nel libro, me ne sono qui abbiamo una bella e brava esponente di Nonna di Meno Milano, Giulia. Bella e brava, ho dei dubbi, però. No, appunto, Don Una di Meno è sicuramente il movimento che forse figura più ampiamente nel libro, ma insomma ci sono riferimenti in questo, così come nel libro precedente, un movimento come Black Lives Matter, che è un altro movimento sociale che ho avuto la fortuna di osservare da vicino. La conclusione del libro convoca in qualche modo quelli che sono i movimenti per la giustizia climatica, in tutto quello che è quel vasto arco che va dai Fridays for Future a Extinction Rebellion e oltre. E quindi appunto mi pareva che ci fosse la necessità di elaborare un po' le lezioni che venivano da questi movimenti sul fare tesoro di un sentimento come la rabbia, non reprimerlo in nome di una politica più o meno tecnocratica che vorrebbe parlare soltanto alla testa e non alla pancia, no, delle persone, in una immagine piuttosto semplicistica in cui la testa sarebbe più importante della pancia, no? O comunque si potrebbe magari addirittura fare a meno della seconda. Questi movimenti mi pare che abbiano dimostrato un po' con l'intelligenza della prassi come un sentimento come la rabbia possa essere poi il punto di partenza per l'elaborazione di un repertorio di pratiche di partecipazione, di un'agenda politica, che invece sono estremamente interessanti ed estremamente radicali. Corretto, corretto, Franco. Noi siamo d'accordo con te. Proprio portare avanti il discorso e parlare di una politica appunto più radicale, una delle robe che mi ha colpito è quando parli della, diciamo, citando Wolf Bukowski, della buona educazione degli oppressi, perché la gente, proprio chi sta più in basso ai margini, non riesce ad arrabbiarsi, non riesce a ribellarsi. Noi abbiamo avuto in Lombardia proprio il primo caso di Covid-19, da cui è iniziata tutta la pandemia, purtroppo. E nel tempo abbiamo visto, pensavamo si stesse accendendo questa rabbia. Noi come ZAM siamo attivi nelle brigate di mutuo appoggio e di solidarietà per l'emergenza, abbiamo cercato di proprio arrabbiarci ancora di più insieme alle persone che erano costrette a casa, che non hanno potuto lavorare, che non sono riuscite ad andare avanti, ma anche ora soprattutto sembra che ci siamo già dimenticato tutto quello che è successo. Beh, certo, sicuramente c'è stato soprattutto nel momento della cosiddetta prima ondata, no? Un attivarsi anche dal basso di tutta una serie di pratiche di mutuo soccorso, di solidarietà, che sono state delle pratiche anche radicali, oltre che efficaci. Lo ricordava l'anno scorso un amico e compagno, Camillo Chiappino, in un importante articolo per il Tascabile, come di fatto anche la prima ondata di chiusure e di misure anche da parte delle autorità a tutela della salute pubblica, e di fatto era avvenuta anche perché le autorità avevano in qualche modo dovuto prendere atto di quelle che erano tutta una serie di mobilitazioni sindacali del basso, di scioperi proclamati o minacciati, richieste molto forti della società civile, appunto, di in qualche modo mettere al primo posto la salute rispetto a una logica economicistica che porta a privilegiare un profitto di breve periodo. E certo è che nel momento in cui poi le ondate pandemiche hanno cominciato purtroppo a susseguirsi, questa carica radicale iniziale si è andata un po' perdendo in qualche modo, e anche della pandemia probabilmente abbiamo cominciato a fare, ma più che altro a subire, un tipo di narrazione sempre più potremmo dire consociativa, no? Un tipo di narrazione anche che non aveva posto per la conflittualità sociale al suo interno. Certamente uno dei grandi rischi, delle grandi insidie di questo periodo è quello di credere che il conflitto sociale possa essere agito soltanto nelle forme di un movimento Novax che ormai vediamo sempre più egemonizzato da una destra delle peggiori possibili, no? Anche la come dire, la nonchalance con cui si accettano delle limitazioni sempre più forti rispetto a diritti di manifestazione del dissenso, diritti di partecipazione democratica, probabilmente deriva dal fatto che in questo momento ci raffiguriamo appunto il dissenso e la conflittualità sociale come delle cose che possono agire soltanto in una maniera irrazionale o appunto una maniera nociva del bene pubblico, ma dimenticando che poi fino a ieri l'altro di forme di conflittualità sociale drasticamente opposte, e ce n'erano moltissime, che pure anche quelle, no, erano poi probabilmente soprattutto quelle erano al centro di un dispositivo repressivo. L'espressione che Wolf Bukowski molto efficacemente utilizzava già un paio di anni fa nel suo libro, appunto, La buona educazione degli oppressi, fotografava proprio una situazione pre-pandemica nella quale pure provare ad esempio a smontare un dispositivo come quello del decoro urbano e a farlo anche in maniera polemica, in maniera conflittuale, era quasi impossibile senza venire stigmatizzati dai media mainstream, senza prendersi la repressione poliziesca sul campo e poi la criminalizzazione giudiziaria eventualmente dopo nelle aule di giustizia. Sicuramente riflettere sulla rabbia significa anche riflettere su quello che è il ruolo e il potenziale del conflitto sociale, che appunto si trova poi anche in manifestazioni di solidarietà, no? Anche quelle sono delle modalità di agire il dissenso sociale, in qualche modo di dare una rappresentazione, una prefigurazione di relazioni sociali che mettono al centro valori diversi rispetto a quelli dominanti. E quindi c'è sicuramente da augurarsi che questo periodo in cui la conflittualità anche nel racconto pubblico possa essere soltanto quella reazionaria, soltanto quella parafascista di certe manifestazioni, e termini e invece si ricominci a immaginare anche un dissenso e un conflitto che vengono agiti in una direzione diametralmente opposta. La metafora della balistica che io utilizzo nel libro in qualche modo serve proprio a questo, cioè così come ci si interroga rispetto appunto a un colpo di pistola in una perizia balistica su quella che è stata la sua traiettoria, quello che era il suo obiettivo, da dove è partito, così di manifestazioni molto diverse di rabbia, no? Una rabbia egualitaria e poi la rabbia di chi entra nella sede di un sindacato e lo devasta, e dobbiamo chiederci appunto chi agisce questa rabbia, da dove parte e dove è diretta, se è diretta contro quelle che sono le cause di fenomeni di oppressione e di malessere sociale, oppure contro capri espiatori, contro bersagli di comodo, se è una rabbia proporzionata o se è una rabbia sproporzionata nelle sue modalità di espressione, se è una rabbia che ha delle potenzialità di mobilitazione sociale oppure è qualcosa che muore lì. Quindi questi sono tutti dei discorsi che sicuramente bisogna tenere in vita, credo, in questo momento più che mai. Grazie Franco, non so se i miei compagni e compagne qui hanno delle domande, se vogliamo far partire un po' di musica e riprendere fra pochino. No, facciamo un'altra domanda, vado con un'altra, mi dicono di un'altra domanda da me, un'altra domanda da me. È accennato alla repressione, che spesso quando si cerca di alzare il conflitto a livello più alto, purtroppo tendiamo sempre a dover giustificare, perché è sempre più alta e è sempre più forte. Noi quest'anno abbiamo affrontato per il ventennale di Genova tanti discorsi su questa repressione, su come si sia scatenata per tutti i 20 anni, dal 2001 al 2021. E come spesso si dice, ha causato più danni giuridicamente una vetrina rotta che una vita spezzata. Anche di questo parli nel libro, ci vuoi dare un po' il tuo parere? Beh, certamente il libro si apre proprio ricordando quelli che sono i fatti del 2018 di Firenze, dove c'è un omicidio, diciamo, a sfondo razzista, che avviene in pieno giorno a sangue freddo al centro di Firenze, un cittadino italiano che uccide un venditore ambulante senegalese in Iene, e poi la protesta della comunità senegalese di Firenze, una comunità numerosa, peraltro molto ben inserita nel contesto cittadino, che prima chiede un incontro con il sindaco, se lo vede negare, dà vita a un corteo spontaneo, anche perché siamo a 3 mesi dall'attentato razzista di Macerata, e quindi l'Italia sta divenendo in modo sempre più visibile un paese in cui si spara per strada alle persone nere. Durante quella manifestazione non autorizzata vengono rovesciate le famose fioriere, no? Un paio di fioriere che erano parte dell'arredo urbano, il valore di qualche centinaio di euro. A fine giornata tanto il sindaco quanto i media mainstream mettono sullo stesso piano l'uccisione razzista di un uomo e il rovesciamento delle fioriere, dicendo la violenza di qualunque tipo è sempre sbagliata. E questo tipo di narrazione è appunto un tipo di narrazione che assegna alla vita delle persone razzializzate lo stesso valore che assegna agli oggetti dell'arredo urbano, no? E che poi queste sono gli stessi tipi di narrazione che poi nel corso degli anni trovano anche in qualche modo posto e conferma all'interno delle aule giudiziarie, appunto il fatto che ricorre il ventennale di Genova e ci sono stati degli strascichi pesantissimi in termini di criminalizzazione rispetto a qualche vetrina rotta, ma che insomma per l'omicidio di Carlo Giuliani non si sia mai riuscito ad avere giustizia nelle aule di tribunale. E quindi questo è un tema certamente da mettere al centro, come appunto una rabbia che balisticamente è radicale e ben indirizzata poi subisca una repressione anche feroce, e invece quando poi è la violenza e la rabbia dell'ordine costituito e dei suoi questurini ad esprimersi, invece trova, diciamo, sempre una grande comprensione, quando non, diciamo, una totale legalizzazione. Quindi sicuramente queste sono delle tematiche da rimettere al centro. Io l'ultima presentazione di questo libro in presenza ho avuto il piacere e l'onore di farlo con una compagna, un'amica, Edi Marcucci, che insomma da attivista Notav, ma anche da persona che ha combattuto in Rojava al fianco della GPG, dell'esercito di liberazione nazionale, in particolare la sua componente più femminista. E oggi si ritrova bollata dalle autorità italiane come persona socialmente pericolosa e soggetta ad un regime di sorveglianza speciale prossimo al confine fascista, no? E al tempo stesso appunto vediamo esempi di violenza istituzionale e poliziesca che avvengono con grande nonchalance. Di fronte a questo credo sia importante, diciamo, al fianco della denuncia, al fianco della produzione di un controdiscorso, e anche in qualche modo un tipo di riflessione che però non rappresenti questo potere come dire poliziesco, potere degli apparati repressivi dello Stato, come un potere invincibile, no? Come un potere in realtà più forte o più saldo di quanto non sia effettivamente. Provavo a dirlo qualche mese fa in un dialogo con Alessandro Mantovani, che passo anche questo sul tascabile, cioè i giorni di Genova sono dei giorni in cui effettivamente l'apparato repressivo lo vediamo al suo apice, no? Al suo massimo potere, nel suo dispiegamento più brutale, ma allo stesso tempo anche nel suo momento di massima debolezza, nel suo momento di massima paura, no? Nel suo momento di massima paranoia, in un momento in cui percepisce che c'è un'alternativa sociale che potrebbe veramente in qualche modo cambiare gli assetti in campo, potrebbe cambiare i rapporti di forza nella società. E questo è un potere che non va non soltanto criticato, no, e costantemente monitorato, ma è un potere che va in qualche modo anche ridimensionato, che va irriso, no? È un potere profondamente patetico nella sua vita. E questo credo che sia una parte anche dell'eredità di quei giorni, di quell'esperienza di Genova, che noi non dobbiamo dimenticarci. Bel libro che un amico come Gabriele Proglio ha fatto uscire quest'anno, proprio sulla storia orale dei giorni di Genova, e poi in particolare di quello che è avvenuto dopo, il capitolo finale in cui lui racconta appunto le vite delle persone che erano in piazza Genova nei 20 anni successivi. E queste vite, c'è al netto di ogni repressione e criminalizzazione una ricchezza, una radicalità, anche una capacità di continuare a fare attivismo, di mettersi al servizio della società, che diciamo sono completamente assenti nelle vite magari di quegli agenti che dopo Genova si sono presi condanne minime e poi hanno fatto carriera all'interno degli apparati repressivi dello Stato, no? Per usare una nozione filosofica, c'è una forma di vita, no, al lavoro in campo, che è qualcosa di incommensurabilmente superiore, no, di più autentico di quella che c'è all'opera nell'arte. E questo, al netto di tutte le violenze subite, è qualcosa che credo non si debba mai dimenticare, no? Il volto anche più appunto misero, impaurito del potere. Bella riflessione, molto molto bella. Anche i miei compagni qui non li puoi vedere, ma annuiscono e hanno delle facce sorridenti e belle. Sì, sono contento. No, ragionando anche con Michela in questi ultimi giorni, confrontandoci un pochettino sul testo per prepararci alla presentazione, ci è venuto anche appunto molto spontaneo pensare a Genova, perché ultimamente come radio abbiamo fatto un lavoro di redazione, abbiamo intervistato un po' di persone che erano presenti a Genova in diverse forme, e proprio il discorso sulla rabbia e la trasformazione. Dalla rabbia io mi trovo in un contesto per trasformarla in qualcosa di positivo, quindi costruire qualcosa, costruire un'alternativa. E anche legato al discorso che facevi adesso sulla repressione, credo che sia proprio fondamentale capire quel passaggio di paura dello Stato, delle istituzioni, di vedere quella forza propulsiva e cercare quindi di distruggerla. Ed è quello che forse in qualche modo la repressione è riuscita a fare, magari disgregando quella forte convergenza che c'è stata a Genova in quei giorni, arrivando dagli anni prima, Seattle, però poi di fatto in realtà no, perché come dicevi anche tu adesso, tutte queste persone in qualche modo hanno continuato a costruire la loro alternativa, continuare nelle loro vite in modo differente. E quindi, cioè, ci piace molto questo concetto legato alla rabbia, che nonostante tutto però riesca sempre a costruire, e noi ci siamo molto interrogati proprio su Genova fino ad oggi, ed è bello poter confrontare anche con magari noi non eravamo ovviamente arrivati e arrivate a pensare così in alto sulla rabbia, ed è bello poter leggere e sentire alcune parole e farle proprie. Beh, sì, sicuramente la rabbia, che è un altro dei concetti con cui provo a mettere in dialogo nel libro, è quello di cura di sé, no? Nella rabbia c'è anche una funzione in qualche modo conoscitiva e curativa. Qualcosa che declina la cura di sé non nella modalità individualistica neoliberale a cui purtroppo siamo sempre più abituate e abituati, no? Arrabbiarsi come si fanno corsi di wellness piuttosto che certi tipi di meditazione, quelli proposti, no? dall'azienda, dagli aziende. Esatto, no, ma cioè, queste sono sei cose male, che per sei esempio... smart working, no, fai un po' di mindfulness, wellness. Esatto, no, ma per esempio negli Stati Uniti una cosa che andava abbastanza di moda alcuni anni fa era sfogare la propria rabbia andando in questi quasi sale giochi in cui ti davano una mazza e tu potevi distruggere televisori, oggetti d'arredo e cose del genere, e poi passavi col bancomat in cassa e diciamo pagavi. E quindi una modalità di sfogo della rabbia che è una modalità che è quanto di più in politico si possa immaginare, no? In qualche modo appunto una rabbia come una mera istintualità fisica, in realtà in una rabbia vissuta anche con una certa consapevolezza politica, no? Una rabbia rispetto a delle forme di ingiustizia e di oppressione sociale, c'è invece un elemento di conoscenza e di cura di sé e dell'altro e dell'altra che è fondamentale. Questa è una delle cose che provo a dire nel libro, quindi interrogarsi su quelle che sono le radici della propria rabbia, interrogarsi su quelle che possono essere le modalità migliori per incanalarla, interrogarsi su quelle che sono anche le esperienze comuni di rabbia, no? Rispetto a soprusi quotidiani che magari provocano in noi le stesse reazioni senza che nemmeno noi ce ne accorgiamo, perché magari le mascheriamo, le reprimiamo. Nella rabbia c'è, diceva Audre Lorde, a cui è dedicato un capitolo del libro, una componente di informazione potentissima, no? La rabbia è un veicolo di informazione, lo può essere all'interno dei movimenti, che diceva Lorde, anche tra persone che sono alleate, non è soltanto la rabbia nei confronti dell'oppressione e dell'oppressore, ma è anche la rabbia a volte nei confronti di chi, pur attraversando i nostri spazi e condividendo alcune delle nostre battaglie, però magari non comprende quella che è la nostra posizione, il nostro ruolo, no? all'interno di queste lotte, di queste mobilitazioni. Audre Lorde era una femminista afroamericana omosessuale all'interno di un movimento femminista statunitense che in quel momento storico, gli anni 70-80, era largamente bianco, largamente middle class, largamente eterosessuale, e quindi era portatrice di tutta una serie di differenze, portatrice di una sensibilità e di un radicalismo che faticavano in qualche modo a trovare rappresentazione all'interno di questo movimento. Quindi lei diceva: io agisco la mia rabbia anche contro le altre femministe, no? Le femministe bianche, che sono mie alleate in quanto parte del movimento femminista, ma che al contempo rischiano di non comprendere quello che è il ruolo delle donne non bianche, delle donne non eterosessuali all'interno di questo movimento, no? Non è solo un ruolo di appellimento, un ruolo così fare in qualche modo le rappresentanti della identity politics, ma è un ruolo molto più radicale, molto più dirompente, che porta delle domande, delle soggettività eccedenti, no? rispetto alla norma di questo movimento. Quindi anche qui certamente la rabbia come strumento anche di cura e di dibattito all'interno dei movimenti stessi è una cosa che forse si è spesso persa, no? Viviamo in una logica in cui ormai il disaccordo viene vissuto come qualche cosa di inconciliabile, no? Che porta a creare dei rapporti di amicizia invalicabili, no? Qualunque critica viene vissuta come qualcosa di profondamente personale. E invece la rabbia è anche il sentimento proprio di una critica che invece è politica, è una critica che non si ferma mai sul piano personale, no? E che quindi fa crescere in qualche modo anche chi la riceve, oltre che chi la agisce. Quindi

scusate. Vai Riccardo con la tua domanda. Va bene, allora, aspettate qua, mi devo avvicinare al microfono che è distantissimo appunto. Mi sentite intanto? Sì, si sì. Sente, da sono io che non mi sento da solo, ma va bene così. E, allora, in realtà, Franco, visto che io, non, come ti dicevo fuori onda, non ho letto il tuo libro perché attendevo di vederti per comprarlo direttamente da te, ma ho letto però l'altro libro a cui hai fatto riferimento, quello di Wolf Bukowski, La buona educazione degli oppressi, che mi è piaciuto molto come, come libro, mi ha dato un sacco di spunti. E la domanda in cui in realtà hai in parte già risposto era il perché non c'è più questo utilizzo della rabbia all'interno dei conflitti sociali. E in particolare una delle risposte che io mi ero dato appunto leggendo quel libro, e su questo ti chiedo poi a te una tua idea, visto che hai trattato di questo tema anche nella scorsa mezz'ora, diciamo, e era un po' il tema dell'autoinibizione e dell'autocontrollo, cioè del fatto che come dire, effettivamente fin dalle scuole elementari ci insegnano a in qualche modo a essere delatori della persona a fianco. Perché? Perché all'interno di un contesto di competizione che è tipico capitalista, mi viene da dire, per vincere si può usare anche lo strumento della delazione, e quindi in qualche modo ci educano anche a questo tipo di autoinibizione e autocontrollo. Questo fattore io l'ho visto, ma vabbè, penso che l'abbiamo visto tutti, aumentare esponenzialmente durante la pandemia, quando, cioè, non so se io me lo ricordo, c'era la gente che chiamava la polizia perché c'era un tipo che andava a correre durante il lockdown, il famoso runner, oppure la gente che si permetteva di uscire in casa più di due volte al giorno con il cane e la gente chiamava la polizia, eccetera, eccetera. Cioè, è un po' come se ognuno di noi avesse introiettato dentro di sé un piccolo poliziotto, che purtroppo diventa sempre più grande, e quindi fanno gestacci, però raga, purtroppo mi sa che un po' è così, e quindi questo piccolo poliziotto il cui unico scopo alla fine, unico non lo so, ma il cui scopo è anche quello di mantenere sotto controllo ed evitare che questa rabbia sfoci in qualcosa di creativo. Spero si sia capito più una riflessione. Ma certamente, tu citavi diversi aspetti che mi sembrano importanti. Sicuramente un aspetto centrale è quello della socializzazione. Tu dicevi fin dalle scuole dell'infanzia, mi verrebbe da aggiungere fin dalle scuole dell'infanzia in modo profondamente diseguale. Qui ci sono studi molto ampi in ambito pedagogico e in ambito anche di psicologia sociale che ad esempio dimostrano come qui ci sia una asimmetria di genere molto forte. Ci sono studi condotti in scuole di infanzia dove di fronte alle stesse identiche reazioni di bambine e bambini, i bambini maschi vengono definiti arrabbiati dagli educatori e dalle educatrici, e le bambine femmine sono definite capricciose. Questo è un tema enorme, no? L'inesprimibilità, se non a patto di gravi sanzioni sociali, della rabbia femminile, verrebbe da dire a maggior ragione della rabbia femminista. E quindi il fatto che ci siano categorie, le donne in generale, ma poi ci sono minoranze etniche piuttosto che altri casi specifici, poi anche a seconda dei contesti nazionali, che hanno una diciamo difficoltà particolare da un lato anche solo a comprendere che il tipo di reazione emotiva che stanno avendo è una reazione di rabbia, e in secondo luogo poi ad esprimerla senza spuntare una diciamo prezzo e una stigmatizzazione sociale molto pesante, e per cui nel libro insomma cito anche tutta una serie di studi che ci sono ad esempio negli Stati Uniti su come paradossalmente la popolazione afroamericana, che è una delle componenti della società che meno esprime la rabbia in ambito politico, perlomeno fino alle elezioni del movimento Black Lives Matter, che quindi più si caratterizza per anche un alto tasso di rispetto alle regole, obbedienza anche estrema a quelle che è il dettato delle leggi, eccetera, eppure venga diciamo strutturalmente rappresentata come una componente della popolazione oltremodo rabbiosa. E c'è questa diciamo rappresentazione razzista molto forte delle persone afroamericane come delle persone intrinsecamente arrabbiate, intrinsecamente violente, pure quando diciamo l'evidenza empirica, c'è uno studio di Phoenix molto importante che è uscito nel libro, uscito lo scorso anno, ci dice esattamente il contrario. Quindi persino quando non ci si arrabbia, comunque la semplice appartenenza ad alcune categorie porta ad essere visti e viste come eccessivamente, no, rabbiosi, eccessivamente iracondi. Quindi questo sicuramente mi sembra un aspetto importante nel discorso che facevi. Un altro aspetto rilevante può essere sicuramente quello della interiorizzazione, no, del controllo, insomma anche questo fatto, no, il celebre passaggio tra una società disciplinare come quella che ci scriveva Michel Foucault, una società del controllo, no, che, per dirla con così Deleuze, cioè dove non serve più una struttura di sorveglianza anche architettonicamente ingombrante per far sì che le persone obbediscano, ma ce l'abbiamo noi già al nostro interno, no? Come dire, quella vocina poliziesca che ci dice che dobbiamo stare attenti, in qualche modo dobbiamo rispettare certe norme, non sgarrare minimamente da certi standard sociali. Il libro, per esempio, nel capitolo su Non è di meno, riflette molto su una categoria profondamente problematica sul piano politico, che è la categoria della colpa, no? Che poi emerge anche dal discorso che tu facevi della delazione, sulla delazione. Un movimento come Non una di meno, certo, provo a dire nel libro, insomma, anche appunto sulla scia di lunghi dialoghi con attiviste e intellettuali che animano questo movimento, è un movimento che lancia una sfida pratica e teorica, no, alla categoria della colpa. In primo luogo la colpevolizzazione di chi vive una forma di violenza, no? E quindi sicuramente uscire dall'ottica, in questo caso patriarcale, ma comunque un'ottica certamente diseguale e violenta, che subire un sopruso, subire un'ingiustizia sia in qualche modo colpa di chi la subisce, perché anche questo fa parte, no, del pensiero dominante. E poi in secondo luogo anche l'uscita, nel momento in cui si mettono a fuoco queste forme di ingiustizia, queste forme di violenza, l'uscita da un paradigma punitivo rispetto a questi fenomeni, no? L'uscita da una mentalità per cui si pensa che la violenza maschile sia una cosa che possa essere risolta una volta per tutte con un inasprimento delle norme penali, no? Che è una cosa straordinariamente miope da qualunque punto di vista, no? Ma chiunque abbia attraversato, io credo, un carcere, non solo, ma anche, diciamo, nei reparti popolati dai cosiddetti sex offenders, sa benissimo che si tratta di un contesto che forse incoraggia alla perpetuazione di certe forme di violenza piuttosto che scoraggiare, no? E quindi certamente da questo punto di vista, appunto, è una dimensione morale, moralistica, io provo a dire nel libro, anche profondamente teologica in qualche modo, no? Con Benjamin della colpa, è una dimensione che poi bene anche si abbina purtroppo all'immaginario del neoliberalismo, no? E quindi un immaginario che ci dice che le conseguenze delle disuguaglianze sociali sono delle colpe individuali, che la povertà, certo, è colpa nostra perché non ci siamo impegnati abbastanza, no? Sicuramente la rabbia è un sentimento che porta a rimettere in discussione tutti questi punti che ci dicevamo, e che, come dire, ci porta ad avere un atteggiamento meno acquiescente, meno passivo, sì, a tutte queste tematiche. Quindi anche l'importanza di coltivare appunto un certo tipo di rabbia, una rabbia bene indirizzata che sia liberatoria e non una rabbia che, diciamo, ci fa soltanto sentire ancora più oppresse ed oppressi, ma che poi non rimane sul piano individuale, non è veicolo di cambiamento sociale e politico. Bene, io non farei più altre domande, sennò spoileriamo troppo. Ce le teniamo per l'incontro dal vivo. Sì, sta spoilerando troppo. Anche io adesso mi autoinibisco, il mio piccolo poliziotto. E vi dico già delle robe di cui vorrei parlare, che non abbiamo parlato. Utopia, abbiamo accennato alla cura e alla costruzione di una politica diversa. Perciò le lascio qua, le lascio così, nell'etere. Radio ZM con l'impegno di anche mio di riprenderle il prima possibile, insomma, di persona, ecco. Ma certo, ti aspettiamo. Ottimo. Bene, allora sentiremo... io vi ringrazio. Sì, va bene. No, noi ringraziamo te, è stato veramente interessante come antipasto. Non vediamo l'ora della cena completa. Va bene, grazie mille. Grazie. Grazie a voi, io allora mi rimetto ai fornelli, che poi anche ora per fare la metafora e quindi poi alla prossima, e stavolta insomma di persona. Insieme, buon appetito. Un abbraccio a voi e alle persone all'ascolto. Grazie. Ciao. A presto. Ciao. Beh raga, che bomba. Ma lo facciamo al compleanno? Potremmo. Ma non dobbiamo già fare qualcosa altro? Non facciamo di cosa al compleanno? Una settimana intera di festeggiamenti. Cosa abbiamo magari lo coinvolgiamo. Ci stai ancora ascoltando? Può essere. No, ha messo giù il telefono. Metti messo, giù. Fantastico. Dicevamo. C'è da fare. Non dico sì, voi. Abbiamo cose da fare. Però. Tu cagare, cosa? Qualcuno ha detto qualcosa? Oh no! Adesso vediamo chi sta ascoltando. Non ho sentito niente. Vediamo chi ascolterà il podcast per questa piccola chicca. L'hai detto molto veloce, non si è neanche esatto, capito. Secondo me non quello si è capito. Che ha detto era. Ci sono 64 persone che ascoltano, ma dove? Potevi fare attenzione 5. A tutto il pezzo che ha fatto su Audre Lorde, il femminismo e poi non una di meno. O quello sul senso di colpa. Ma anche. Chi? Io. Ma invece di lanciare palle, cose a caso, potevi ascoltare il momento pregnante. A me mi sono aperto un sacco di file su anche ovviamente Angela Davis, l'intersezionalità, la storia della rabbia anche mossa all'interno dei movimenti per criticarsi e quindi essere accolta come lei aveva criticato e criticizzato il ruolo maschile all'interno del Black Movement. Inutile che fai i gesti, perché io ho studiato a differenza. Si vede che hai studiato, questa è la questione. Però non te lo fa pesare comunque, questo è importante. Io, Gulli, vorrei farti questo regalo. È bello fare questi momenti di spessore culturale. Infatti. Perle regalate ai porci, anzi al porco che sono io, perché qua invece allora, tutte le persone. Questo è un po' capace. Specista, se posso. Hai ragione. Però è così. Bravo, è così. Ecco, così le abbiamo toccate tutte. No, manca ancora l'ambiente. L'ambiente non abbiamo ancora toccato, ma vabbè. Ci alberi merda. No! Prati schifo. No! Basta. Va bene, volevi mettere un brano? Già messo. Bravo. Sottofondo è un brano che a te piace, penso molto. Oddio santo, cos'è? Sarà il galeone. Vabbè, Non l'ho trovato, adesso lo cerco. Vai, Michela, saluta gli ascoltatori e le ascoltatrici, soprattutto quelle di Radio Cina 1, il nostro miliardo di affezionati ascoltatori e ascoltatrici. Ma non li conosci, dai. Ma lo sapete? Ci ascoltano sempre. Tutte le volte quando facciamo radio, io dico sempre che c'è un accordo. Rai Radio Cina 1. Radio Cina 1 ci manda in diretta, ma tradotti simultaneamente nei sette dialetti della Cina imperiale. Mandarino. Fame. Mandarini a tutti, buon mandarini e buona serata. Ciao. Bye.